11:11 minuti, Radio Radicale di nuovo in diretta dopo lo spazio di intervista con il senatore del Popolo delle Libertà Gaetano Quagliariello. C'è un altro momento di dialogo con gli ascoltatori, in questo caso anche di telefonate che potrete cominciare a porre, e abbiamo un ospite d'eccezione che ringraziamo molto per essere nei nostri studi. Ma diamo subito la parola a Gianfranco Cescone di Lucia, che ce lo presenta e lo intervista. Beh, l'ospite è Marco Bellocchio e abbiamo almeno un paio di ragioni per discutere con lui. La prima è che in questi giorni, da un paio di settimane, è uscito nelle sale il suo ultimo film, che si intitola Vincere, e come molti sapranno, perché è un film di cui si è molto parlato, racconta un episodio finora poco noto della vita di Mussolini, in particolare della vita giovanile di Mussolini, e cioè un suo amore con una donna dalla quale ebbe un figlio, ed è un amore finito molto male, perché questa donna fu poi internata in manicomio per evitare uno scandalo pubblico, dal momento che continuava a protestare, anche dopo il matrimonio del duce, di essere sua moglie e la madre del suo primogenito. Dunque, da una parte, questo film Vincere. E poi c'è un'altra ragione che, come dire, a noi radicali preme particolarmente, perché in occasione della presentazione del film al Festival di Cannes, Marco Bellocchio ha fatto una pubblica dichiarazione di voto a sostegno dei radicali, dicendo che sono gli unici coerenti, almeno così è stata riportata dalle agenzie di stampa. Ecco, è una dichiarazione forse un po' inusuale nell'ambito di un festival cinematografico. Volevo sapere come è nata e se può illustrarcela meglio, precisare meglio le ragioni. Ma io non sono un politico, ma io l'ho fatta perché ne sono profondamente convinto, nel senso che nella storia del Partito Radicale tutta una serie di temi, tutta una serie di battaglie passate, vinte e presenti, io sostanzialmente le condivido, e poiché in fondo sono un ottimista e apprezzo la coerenza, ho deciso di votare per i radicali alle europee. Insomma. Il discorso poi del voto, io mi sono incontrato per caso, perché ho fatto vedere il film a Scalfari, che lo ha definito tremendo, io tra l'altro speravo che intervenisse, e ancora non l'ha fatto. Ma a prescindere da ciò, lui mi disse: guardi, non sono d'accordo con lei, Bellocchio, perché lo ritengo un voto inutile. Il discorso del voto inutile, io da artista innanzitutto faccio l'elogio dell'inutilità. Senza l'inutilità veramente vivremmo degli automi, insomma. E poi in questa situazione, in cui c'è un clima di menefreghismo, di disfattismo, di depressione, affermare e riconoscersi in un partito, in una lista di persone non solo per bene coerenti, le cui idee io condivido, mi sembra che valga la pena di rischiare l'inutilità, di non essere rappresentati. Non è che sia solo necessario essere rappresentati al Parlamento europeo, io me lo auguro, ma se anche non si arrivasse a quel famoso quorum, io credo che questo riconoscersi in questo partito valga la pena di farlo. Senta, proprio concomitante con questa sua dichiarazione, c'è stato uno sciopero della sete di Pannella, probabilmente lei era a Cannes. Ecco, lei ha avuto modo di vederlo, proprio, ecco, da esperto proprio dell'immagine, diciamo, ha avuto modo di vedere le trasmissioni in cui ha partecipato come esito, diciamo, dello sciopero della sete? Diciamo dei frammenti, perché poi impressioni? Effettivamente nella trasmissione di Santoro, ricordo, era molto provato Marco, parlava quasi a fatica, mentre invece ieri l'ho visto in una tribuna elettorale, aveva ritrovato la sua energia fisica e quindi anche questo grande spirito combattivo. Ma l'emozione è stata forte, perché in fondo io sono più giovane di lui, ma poi non di tanto, e io ho un ricordo di Marco Pannella molto molto antico, fin dai tempi del famoso caso Braibanti, che poi era uno della provincia di Piacenza, in cui poi testimoniai per lui, e fin da allora, ma anche da prima, insomma, lui si batté in quella occasione per una ingiustizia che subiva il povero Braibanti in un clima fortemente impopolare. In questo senso lui non ha mai avuto paura di essere impopolare. Anche questa è una qualità umana che io apprezzo molto. Beh, lui dice sempre: non bisogna avere paura di essere impopolari per essere popolari. Per essere, sì, un gioco. Senta, capita a volte agli autori, quando vanno al Festival di Cannes, di diventare un po' i portavoci, come dire, della situazione politica del loro paese. In certi casi, Moretti, io leggo le interviste sulle riviste di cinema, gli fanno più domande su Berlusconi che sul suo film. Non so se è capitato anche a lei, però ecco, che umori, non so, la conferenza stampa, ha avuto degli umori di giornalisti stranieri sulla situazione politica italiana, che impressioni? Beh, dalla Francia, dall'America, c'è sempre uno stupore che poi lo si è letto, lo si è visto anche su dei grandi quotidiani europei e mondiali. Quanto loro siano informati, però effettivamente questo essere governati da un uomo così discusso è per loro incomprensibile. Ecco, evidentemente hanno un concetto di democrazia diverso dal nostro. Io anche lì non ho voluto e non voglio assolutamente, e l'ho detto varie volte, fare dei paralleli facili tra Mussolini e Berlusconi, e tantomeno lo scandalo della ragazzina con la moglie, quasi che la moglie sia vittima, un po' come la Ida dal Ser. No, è esagerato. Certamente c'è un clima di, da una parte, di continuo confronto tra opposizione e maggioranza, dove il popolo, dove tutti parlano in nome del popolo, dove gli italiani sono, continuano a urlare il loro, non il loro disgusto, ma il loro pessimismo, il loro disincanto, il loro non credere, e gli uni e gli altri parlano in nome del popolo, e questo per cui, un po' come nel fascismo, diceva qualcuno, poi ciascuno dice: vabbè, la politica è sporca, non è, quindi ognuno pensa ai cavoli suoi, e quindi c'è un clima di menefreghismo, di assenza totale di idealismo, di disperazione, e quindi di un consenso, vabbè, dice, non c'è niente da fare, quindi andiamo verso chi forse ci promette delle cose materiali, delle sicurezze che poi sono solo verbali. Ecco, e questo clima, ecco, di oggi, disperato, menefreghista, sfiduciato, produce quel consenso che assomiglia molto a quel consenso che ebbe Mussolini nel decennio trionfale. Ecco, io non voglio fare infatti i facili parallelismi tra la vicenda di vincere e la situazione italiana, però un altro elemento d'analogia forse c'è. Una delle ragioni per cui Mussolini scelse di far internare in manicomio questa sua presunta prima moglie, Ida dal Ser, appunto, come diceva, è stato anche per non fare scandalo e per non compromettere la sua immagine agli occhi della Chiesa, con cui stava per avviare, certo, poi una politica di conciliazione che portò ai patti lateranensi, come sappiamo. Quindi, ecco, da una parte c'è una discrepanza, diciamo, fra la propria condotta e la morale professata, certo, e dall'altra una sudditanza della politica alla Chiesa. Quindi forse analogie se ne possono trovare più di una. Ecco. Beh, però qui la cosa si rende più complessa, perché Mussolini aveva delle idee molto chiare. Io devo fare il concordato con la Chiesa, quindi in nome di questo, che poi mi darà la libertà di essere un dittatore assoluto, perché dopo il concordato lui non ha avuto più nessun avversario, insomma, perché si è messo d'accordo con la Chiesa. Allora, per arrivare a questo, io devo comportarmi in un certo modo, devo far scomparire le persone che potrebbero disturbarmi. E chiaramente Ida dal Ser è una piccola donna, è un moscerino, però è chiaro che lei, professandosi moglie, denunciava Mussolini come bigamo, il quale si era già sposato due volte con Rachele, e quindi doveva scomparire. anzi nel 25 sposerà religiosamente anche Rachele, proprio per essere a posto con la Chiesa Cattolica. Ed arrivare qui, il discorso delle varie forze politiche è più complesso, nel senso che l'unica forza veramente laica è il Partito Radicale. In questo io mi riconosco. Al contrario, sia l'opposizione che Berlusconi e tutti i suoi alleati cercano assolutamente di non disubbidire alla Chiesa. Quindi la Chiesa, in un certo senso, si potrebbe dire che il PD può trovare delle sintonie maggiori con la Chiesa di quanto non siano gli altri, i quali però hanno fatto quei movimenti veramente reazionari e veramente non dico criminali, ma veramente reazionari nel caso della tragedia della povera Englaro, per cercare addirittura di superarsi, perché hanno paura che la Chiesa non possa ritiri il suo appoggio. In questo è molto mussoliniana questa mossa, insomma, perché quello che dice nel film ad un certo punto lo psichiatra a Ida Dalser, dice la Chiesa è la sola madre che i fascisti ancora temono. È vero, insomma, fa paura la Chiesa e quindi bisogna tenersela buona. Insomma. Secondo me è un discorso valido tuttora, cioè crede che gli italiani esista un cattolicesimo, come dire, o una confidenza nella Chiesa così radicata negli italiani di oggi, oppure, adesso è una domanda da sociologo, non so, un'impressione. Cioè, da una parte la Chiesa ha tutta una serie di benemerenze proprio sulla carità e sull'assistenza, quindi ha questa egemonia importante, perché ci sono tanti poveri, ci sono tanti miserabili, ci sono tanti diseredati, allora questa dimensione di aiutarli, di soccorrerli, in fondo è quasi un monopolio della Chiesa attraverso tutte le sue istituzioni. Dall'altra, il primato della trascendenza è legato a questo stato di incertezza, di paura, di ansia, che ovviamente è molto più accentuato oggi, proprio perché c'è oggettivamente un clima di grande incertezza. Quindi la Chiesa ha due poteri, uno diciamo più materiale dell'assistenza e l'altro quello più spirituale. Che poi le chiese si svuotino, che poi le vocazioni crollino, importa poco, perché adesso la Chiesa ha questi poteri mediatici, che sono la televisione, per esempio, per cui bombarda i poveri italiani quasi ogni giorno, per ogni azione che compie il Papa viene immediatamente trasmessa e imposta in qualche modo, e questo è. Io ricordo subito il numero di telefono, perché tra qualche minuto i nostri ascoltatori potranno cominciare a chiamare, anzi potranno farlo fin d'ora, al nostro numero di telefono per porre domande al nostro ospite, che è il regista Marco Bellocchio, che è qui nei nostri studi. 06 48 80 541. Come sempre avete 40 secondi di tempo per fare una domanda o per svolgere una riflessione. Bellocchio poi risponderà alle vostre questioni. Gianfranco. Senta, il film si apre curiosamente con una professione proprio di ateismo di Mussolini, cioè lui davanti a un uditorio dice: se Dio esiste mi folgori nel giro di 5 minuti, naturalmente Dio non lo folgora e ne conclude che Dio non esiste. Come mai questo avvio proprio su Mussolini, non soltanto anticlericale, poi ci sono anche molti accenti anticlericali? Sì, beh, lui innanzitutto per rappresentare proprio un suo anticlericalismo violento, brutale, che era proprio tipico. Allora c'erano questi duelli tra il prete e l'anarchico e l'ateo. Uno voleva provare che Dio non esisteva, l'altro le famose prove dell'esistenza di Dio, ed è storico. Proprio questo però avvenne non tanto a Trento, credo in Svizzera, quando lui con un sacerdote. Tutti i fatti che sono nel film in qualche modo partono dalla realtà, poi sono stati in qualche modo trasformati, insomma, però questo è reale. E poi per accentuare proprio il fatto che lui era un anticlericale ossessionato quando dice con le budella dell'ultimo papa noi strangoleremo l'ultimo re. Sono delle affermazioni violente, molto brutali, ecco, per dare il clima anche dell'anticlericalismo che permeava molte il socialismo. C'era anche qualche discrepanza, perché appunto c'era l'idea già allora, l'idea di Gesù primo socialista, sì. Quindi questa cosa, però c'era l'ateismo, era qualche cosa di molto più sbandierato di quanto non ci sia adesso. Ci sono già due telefonate, io le farei passare subito una dopo l'altra e poi cominciamo con le risposte. Prima Roma e poi Modena. Roma. Sì, buongiorno. Senta, lei sa che oggi anche economisti di cultura liberale riconoscono apertamente che la ideologia della Thatcher, sintetizza naturalmente, della sparizione dello Stato in nome dell'individuo e quindi del conseguente subentro delle banche al posto degli stati, abbia determinato la peste, questa sì, anglo-americana, che sta appestando il pianeta. Lei sa anche che da almeno 25 anni Giacinto esalta la Thatcher come unica musa della umana portatrice di felicità al genere umano. Poiché se si vota un partito se ne condividono i contenuti, le chiedo apertamente di esprimere il suo consenso a questo. Grazie. Grazie alla nostra ascoltatrice di però Roma. Però non ho capito, io dissento totalmente. Perché mi ha detto di esprimere il suo cose? Cercate di Le politiche, diciamo, le affermazioni dei radicali negli ultimi 25 anni, ha detto la nostra ascoltatrice, spesso sono state vicine alle tesi liberiste della Gran Bretagna. Allora lei condivide o no? Questo voleva direi sapere. Di no, in questo senso, perché la Thatcher penso abbia compiuto tanti disastri. Penso che il pensiero radicale sia per un liberalismo però estremamente tollerante in nome di tanti principi che sono assenti dai programmi della Thatcher, ecco, mi sembra, ecco. Sentiamo Modena, pronto? Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Io ho sempre votato per Pannella e per la Bonino, sempre, ho 38 anni quindi sono quasi 20 anni che voto per loro. Però ultimamente, e continuerò a farlo a vita, però Pannella non è televisivo, cioè il messaggio nel merito io lo conosco molto molto bene perché ascolto la radio tutti i giorni e seguo da una vita sia Marco che Emma, però io non riesco a coinvolgere la gente nei passaggi televisivi di Pannella, cioè sono troppo brevi, il mezzo della televisione è diventato strategico e la gente che cerco di coinvolgere dando appuntamento nei passaggi televisivi di Pannella non riesce a capire quello che lui dice. Bellocchio, questo pone un problema anche sull'efficacia, diciamo, del messaggio di Pannella in TV. Che dice lei? No, io penso che Pannella è efficacissimo. Certo, hai sempre l'impressione che avendo lui poco tempo sia costretto a concentrare nei pochi minuti tutta una serie di principi, di idee, di proposte che naturalmente non è che vengano soffocate, ma però hai questo tipo di eccessiva concentrazione forse non permette una comunicazione più efficace per chi è fuori da questa. Anche quando andò c'è questo sentirsi emarginati e quindi in quel poco tempo condensare, ma questo è un dato di realtà, ecco. Forse in TV anche il discorso verbale poi serve a poco, in realtà sì. Comunica molto di più l'immagine, anche la faccia di una persona, sì. No? Questo sì, è chiaro, però insomma, è chiaro, voglio dire, io non è che, come diceva l'ascoltatore, è da 30 anni, 20 anni, ovviamente chi conosce Marco da tanto tempo, la fiducia è assoluta e non ha bisogno di tante parole, ecco. Ma chi non lo sa, è chiaro che potrebbe essere più difficile. Non... Continuiamo, Reggio Emilia e poi Pisa, pronto? Reggio Emilia. Sì, volevo chiedere, qualora le prossime europee si verificasse uno scenario dove la lista di Ferrero prenda il 3,5, sinistra e verdi il 3,5, i radicali il 2, così si butterebbe via il 9% dei voti, 3,5 più 3,5, 7, 7 più 2, 9. Non era meglio fare una lista unica per eleggere dei parlamentari e poi dividersi dopo, successivamente, una volta eletti nei vari gruppi socialista, liberale, europeo? Tanto i gruppi europei hanno una valenza abbastanza ridicola in Italia, visto che non coincidono praticamente nulla, solo che dopo ti dividevi dei posti, adesso invece ti dividi solo delle mosche. Guarda, io non sono un politico, mi sembra però di fare una piccola distinzione, nel senso che i radicali sono veramente una forza a sé. Il discorso poi delle varie sinistre che si spezzettano continuamente, sì, questo, non vedendo io una grande differenza tra la lista di Vendola e la lista di Ferrero, sì, mi è inspiegabile il perché ognuna rivendichi il fatto di essere la sinistra, però questo tipo di strategia e tattica è qualcosa che mi sfugge completamente. Evidentemente poi ci sono altre sinistre, anche una sinistra più trotskista e altre, perché si frantumino continuamente e non riescano a tenersi insieme, io credo sicuramente per un vuoto che riguarda la sinistra, il fatto che non ci sono delle idee forti che raccolgono, che unificano, insomma, per cui c'è una frammentazione della frammentazione della frammentazione della frammentazione. E diceva proprio da Kahn che il berlusconismo dice che ha rovinato la sinistra, l'antiberlusconismo ha rovinato la sinistra, perché dice l'unica cosa che li tiene insieme, sì, è l'avversione. Adesso così ho detto. Per tanti anni la sinistra o gran parte della sinistra ha cercato di sparare su Berlusconi senza riuscirvi, quindi sottovalutando le forze di Berlusconi, che invece è riuscito poi a vincere. Il punto è, non è che fosse un bersaglio sbagliato, però questo svelava che la sinistra non aveva delle idee proprie, non aveva dei principi, delle proposte veramente concrete, veramente convincenti per lei. Per cui ad un certo punto, quando ti sei rotto le corna nel cercare di abbattere a tutti i costi Berlusconi, a questo punto sveli un tuo vuoto, e questa è la cosa principale. Non è di aver combattuto, ma di non aver proposto cose convincenti, altrettanto convincenti, per cioè di non avere delle idee, ecco, avere poche idee, ecco. Pisa, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Massimo da Pisa. Senta, lei ha parlato di coerenza radicale, ma le sembra coerente un pannella che alle amministrative l'altra volta si offre al centro-destra, al centro-sinistra, cercando un posto per sistemare i propri candidati senza nemmeno sapere quali erano i programmi delle due coalizioni? Le sembra coerente il fatto che Pannella è saltato da un partito all'altro, trovandosi sempre poi escluso, come nella Rota del Pugno, come nel PD? Ha fatto scomparire il simbolo radicale dalle schede e poi ci si meraviglia se la gente non si ricorda più che esistono anche i radicali. Quante elezioni sono mancate ai radicali per queste alleanze di Pannella? Prego, Bellocchio. Ma forse dovreste rispondere voi, però quello, l'unica cosa che mi verrebbe da dire è che, certo, Pannella e i radicali hanno dovuto navigare con disinvoltura, proprio per sopravvivere loro, in quanto per difendere un loro potere o delle poltrone, ma semplicemente per difendere dei principi che sono dei principi straordinariamente importanti, che loro hanno difeso. Ricordiamoci quelle battaglie il cui merito principale è proprio dei radicali: l'aborto, il divorzio e tutte le altre, che poi possono aver sbagliato, che poi possono aver esagerato, che poi abbiano anche lasciato un certo smarrimento, proprio per il tentativo continuo, ma non tanto di sopravvivere per un loro piccolo, mediocre, modesto potere, ma proprio per difendere quelle importantissime idee laiche che solo loro continuano a difendere. Poi altri possono essere alleati, però nella sostanza sono loro quelli che veramente non transigono su certi principi. Milano, pronto? Prego. Sì, buongiorno. No, condivido con il signore che chiamava dalle medie, non so da dove. Pannella sicuramente, come diceva, sentivo una volta in un commento un signore mentre ascoltavo, diceva si può odiare ma sicuramente è il più pulito. L'unica cosa è quando interviene in televisione, lui parla di partitocrazia, deve scendere nei particolari. Partitocrazia, se lui dicesse cosa succede a livello locale, nei comuni, nelle province, nelle regioni, che si spartiscono tutto, destra e sinistra, dall'ultimo share a qualunque cosa. Solo questo bastasse. Poi volevo dire, com'è la situazione del cinema italiano fatto in televisione, la Titanus e altre cose del genere? E un'altra cosa, mi può dire, non so di come... Purtroppo è passato il tempo per il nostro ascoltatore. Ma lì è appunto, capisco, questo è molto interessante, come questo dibattito, come queste interviste, in qualche modo prevalga il discorso sul politico. Sì. D'altronde siamo vicini alle elezioni, ma non me ne faccio nessuna meraviglia, ecco. Ma sul fatto che poi i partiti si dividano i posti, e lì non ho la sufficiente competenza per rispondere nei dettagli. Poi invece chiedeva sul cinema italiano, non ho capito bene. No, però quale fosse... dire una cosa, parlava del cinema italiano fatto per la televisione. Questo sì. È un pochino un problema, nel senso che molto spesso un cinema fatto per la televisione usa immagini televisive, dunque poco espressive, c'è poca ricerca sull'immagine. Il cinema di Bellocchio fa... Se andrete a vedere il film, Vincere fa sicuramente eccezione, non da adesso, perché sono delle immagini creative, insomma, adesso senza entrare nel merito. Però, ecco, secondo lei come si può ovviare a questo problema? Perché in effetti per fare un film deve essere venduto in televisione, mi pare adesso. E ovviare, quindi ci si adegua c'è sempre una certa estetica. No, c'è sempre una lotta che bisogna... E quindi un difendere certe forme, certe immagini che non sono televisive. E quindi trovare... anche nella tutta la storia dell'arte c'è sempre, pensiamo ai grandi artisti, ai grandi pittori, in epoche in cui bisognava semplicemente dipingere la Madonna e Gesù Cristo, pensi alle migliaia e migliaia e migliaia di crocefissioni, chiaramente l'artista, il grande artista, cercava di pur rispettando il soggetto di essere originale, di essere particolarmente di raccontare la sua storia pur in un contesto assolutamente ripetitivo. Il discorso del cinema televisivo è chiaro che qui c'è il discorso che i film devono essere per tutti, per poter il discorso di certe tematiche che possono passare, e quindi c'è, devo dire e devo riconoscere che per Vincere la RAI mi ha lasciato completamente libero, parlando al passato, e quindi ho potuto fare, rispettando una sceneggiatura che è stata approvata, ho potuto fare a modo mio. E naturalmente la forma, il linguaggio, quanto sia televisivo... non so, non credo, ecco, no, però è passato, poi vedremo sul... Ma, un film come Diavolo in corpo, che fece un po' scandalo perché conteneva delle scene erotiche, diciamo, molto esplicite. Oggi potrebbe farlo oppure avrebbe dei problemi? Per la televisione un film così... Il costume è cambiato. In televisione è passato pure Diavolo in corpo. Tagliato. Certo. Perché furono tagliate un paio di scene, quelle più scandalose, potremmo dire. Ma la televisione è, guardi, la banalità, la mediocrità, l'orrore, potremmo dire, è proprio nella forma, nelle immagini, perché poi si vedono rapporti sessuali, naturalmente non l'esposizione dei genitali, però cose anche più apparentemente ardite, ma è proprio la mediocrità, la banalità delle immagini, del linguaggio che in qualche modo le fa passare. Laddove io, insomma, sono stato formato l'arte cinematografica, appunto, lei citava prima io quando andavo a scuola vedevo appunto Eisenstein, Pudovkin, Lang e Griffith, insomma, quella è per me il cinema ha un potenziale espressivo enorme che la televisione taglia, castra, tende ad uccidere, ecco. Massa Carrara e poi Roma. Massa Carrara, pronto? Pronto, parlo da Massa Carrara, sono Franco Marcuccetti. forse sono fuori tema perché ho preso adesso la linea e non so di preciso di cosa state parlando. Comunque è dal 2004 che io cerco di avere il progetto radicale per il sovvenzionamento dei partiti, insomma della politica, perché il giorno 13 giugno al filo diretto la Emma Bonino mi ha detto che esisteva giacente un progetto. Io l'ho cercato vanamente, l'ho chiesto a diverse persone del Partito Radicale e nessuno me ne sa parlare. Se vogliamo il finanziamento, come faranno i poveri a tenere in piedi il loro... Grazie al nostro ascoltatore. I radicali da sempre propongono di togliere il finanziamento pubblico dei partiti e di mantenere i servizi ai partiti, cioè di dare ai partiti politici la possibilità di usare degli strumenti pubblici per poter fare politica. Ma questo appunto è un altro discorso, ne parleremo in un'altra circostanza. Sentiamo Roma, pronto? Buongiorno dottor Bellocchio, lei ha detto poc'anzi che il Partito Radicale è estremamente tollerante, ma lei trova estremamente tollerante che il Partito Radicale voglia far uscire 150.000 persone dalle galere in attesa di giudizio, colpevoli e non colpevoli, comunque li vuol far uscire? Lei trova estremamente tollerante? Vorrei sapere da lei cosa ne pensa di Welby, cosa ne pensa della Englaro? Sappiamo tutto cosa ne pensa il Partito Radicale. E ancora, ma lei pensa veramente che le droghe leggere debbano essere legalizzate per dare possibilità ai nuovi giovani di dargli approccio? Niente, è estremo sì, il Partito Radicale è estremo nei confronti della politica. Prego. E qui si chiedono, fanno delle domande estremamente pesanti, impegnative, insomma. Ma io preferisco parlare non da politico ma da cittadino. Effettivamente la tragedia della Englaro veramente mi è sembrato un'atrocità contro questa possibilità di chiudere rispettando la volontà di lei, la sua vita, addirittura con delle, ma più che banalità, degli orrori, pensare che addirittura lei fosse ancora in grado di procreare. Ecco, questa cecità evidentemente da parte poi di uomini di governo che di matrice socialista, ma naturalmente poi uno si può convertire, ma dava proprio l'impressione che in qualche modo, pur sapendo che la fine sarebbe stata quella, loro dovevano a tutti i costi tenersi buona la Chiesa, tenersi buono il Vaticano. Questa sensazione è veramente orribile. Ecco, il discorso di Welby è diverso, perché lui in qualche modo, pur essendo in una situazione terribile, ha scelto, visto che la sua vita era veramente solo dolore e supplizio, ha scelto di morire. Anche questo, in questi casi, io lo trovo giusto e lo approvo. Ecco. Brescia. Prego. Mi sentite perché il mio telefono gracchia da matti, non so perché. Parlo da Brescia, io sono 40 anni che seguo i radicali, hanno fatto di tutto di più, hanno elogiato la Thatcher quando ero al governo, adesso si scarino indietro, raccontano bugie, sono infingardi, loro vogliono il potere come tutti gli altri, hanno fatto parte della prima repubblica, essendo 50 anni, e ci hanno portato al debito pubblico, anche loro hanno contribuito che abbiamo sulle spalle. L'Italia è nata male e purtroppo sta morendo molto male. Purtroppo non ci sono politici che devono cambiare il sistema, è il sistema che non funziona. Grazie anche alla nostra ascoltatrice, oggi i nostri ascoltatori sono particolarmente accalorati sulla politica. Rispondete voi che siete radicali. È un peccato perché abbiamo uno dei più importanti registi italiani. Qualche curiosità, ricordiamo che è un regista di cinema. Ricordiamo che è un regista di cinema. No, non capisco perché siano così appassionato arrabbiati. E bello. Sono 40 anni però... Perché ci ascoltano, che ci ascoltano e si arrabbiano. Praticamente questa signora dice che tutti sono uguali. Ecco, io invece penso che i fatti lo dimostrano, che i radicali siano comunque diversi, ecco, almeno a me piacciono di più, insomma, hanno una coerenza, al di là, insistono sempre sulla tace, sicuramente possono aver fatto degli errori, però c'è una coerenza di fondo e una condivisione mia dei loro principali principi che non soltanto mi rendono simpatici, ma in questa tornata di Torole voterò per loro. Ecco, basta, però io non sono un politico. Sentiamo Viterbo, pronto? Tra il linguaggio e tutte le tonterie, ma chi è? Bellocchio? È Bellocchio. Predicatore? Sei tu? Sì. Ah, ma quanto sei tozzo, figlio mio. Tu esplicito vuoi rendere tutte le esposizioni, tutte le parolacce che vediamo in televisione, che ci vergogniamo noi stessi di aprire la televisione, ma va a quel paese maledetto. Accidenti, grazie. Alla nostra ascoltatrice da Viterbo, sentiamo la provincia di Teramo, pronto? Ciao, mi chiamo Ivano. Prego. Volevo fare i miei complimenti al regista Bellocchio e poi volevo chiedergli se ha avuto problemi nel girare quel capolavoro di film che è L'ora di religione, grazie. No, ma è il bello di questa diretta, non, perché mi manda quel paese quella signora? Non so, non mi sembra di essere stato piuttosto democratico. Comunque, ma la radio è una valvola di sfogo, chiunque certamente ci fosse l'avrebbe mandato a quel paese, forse, non è niente di personale. Infatti, adesso, un altro principio, la non violenza, qui credo, è un altro principio radicale che è un principio estremamente importante che viene praticato attraverso digiuni, eccetera, eccetera. No, rispetto all'ora di religione, sì, che fu un film molto d'attacco e anche molto provocatorio. Ricordo che gli diedero i 14 anni e così fu evitata tutta una circolazione in tutti i circuiti ex parrocchiali, certo, che fu di danno, anche se il film andò molto bene, fu ben accolto. No, devo dire che non ebbe nessuna censura. E fu trasmesso in televisione, signor. Fu trasmesso in televisione, però fu l'unica richiesta che noi dovemmo accettare, perché altrimenti non avrebbero acquistato, è che nel momento in cui il fratello fu tolto il sonoro. Per cui c'è il fratello che, abbracciando poi Sergio Castellitto, bestemmia, però non sentiamo quello che dice. Quella fu una censura, certo. Beh, sì. Però inevitabilmente era necessaria per, perché sennò la televisione non avrebbe acquistato il film, perché doveva. Perché quella bestemmia fece sì che il film sia stato vietato ai 14 anni. Allora i 14 anni impedivano lo scatto del contratto d'acquisto. La censura, diceva, era diverso 20-30 anni fa, quando lei faceva i pugni in tasca. Sì. Era diversa, sì, la situazione nel fare i film e poi nel poterli. Beh, faceva paura. Da una parte la censura si concentrava, per esempio, molto di più su sulle immagini i nudi, i mezzi nudi, e c'era sempre il pericolo della denuncia e del sequestro. Per cui i produttori e i registi usavano quella tecnica di far vedere il film in un paese, in una città in cui sapevano esservi un pretore democratico, il quale vedeva il film. È accaduto anche per i pugni in tasca, immancabilmente arrivò la denuncia, il film fu visto, non so se a Reggio Emilia, insomma in una città, e il pretore democratico permise che il film circolasse. Vietato al minore di 18 anni. Certo. Oggi, fra l'altro, c'è una legge che non viene più contestata da nessuno, credo che sia un residuo della legge Mammì, per cui i film vietati ai 18 anni non possono andare in televisione in nessun orario. Quello forse sarebbe anche un tema di battaglia, sì, perché credo che sia una cosa molto italiana. Per esempio, in Francia non credo che sia, che esista questo vincolo. Beh, lì sulle televisioni c'è anche molta, dopo mezzanotte, voglio dire. C'è molta ipocrisia, nel senso, sì, che poi, per esempio, Diavolo in corpo fu censurato in America perché fu catalogato tra i film pornografici. Allora a questo punto perse, condannato a quel tipo di categoria, e fu permesso, ma come categoria, come film, sì, sì. Diciamo di film porno, ecco. Cioè la censura usa sempre dei meccanismi. Questa cosa dei 18 anni è veramente infatti nessun film viene, adesso si arriva ai 14, c'è più tolleranza nelle commissioni di censura, sì. Ma se venisse vietato ai 18, effettivamente, vabbè, uno potrebbe poi ripassare in televisione togliendo alcune scene, e allora, come accade per esempio per Diavolo in Corpo, che da prima fu vietato penso ai 18, poi anche lì, per essere acquistato da Mediaset, furono tagliate alcune scene, la fellazio, quelle due o tre cose. Sì, i film di Pasolini non possono. Alcuni film di Pasolini non possono andare in onda. Sì, se sono rimasti. Perché sono rimasti col visto di censura di allora. Forse può darsi. E lui certo non li può. Non li può tagliare. Alba Adriatica, pronto? Alleluia! Eccoci. Finalmente. Senta, comunque io volevo dire, chiamo da Alba Adriatica. Lista, Pannella e Bonino, ma chiedo scusa, il vostro non dovrebbe essere un partito nuovo, innovativo? Allora cominciate a rinnovare anche Pannella e Bonino, non sono dei messia discesi sulla terra. Poi per quanto riguarda le droghe leggere, dovreste dire la verità, non si va in galera per uno spinello. Se poi qualcuno di voi non è al corrente delle norme giuridiche, se ne andassero a leggere, dovete dire la verità. E poi sappiate che lo spinello è l'anticamera dell'eroina. C'è una persona che va con l'eroina che non è passata dallo spinello. Sappiate bene, è andato a rovinare le famiglie. Grazie al nostro ascoltatore di Alba Adriatica. No, ma mi stupisce che pensavo che voi aveste degli affezionati, degli amici, invece ci sono dei nemici, no, curiosi, sono nemici che quindi ascoltano. Sì. No, è chiaro, poi non si sa che io sono contrario a tutte le droghe, ovvio, un discorso, e quindi le trovo negative sotto tutti gli aspetti, però un conto è poi un discorso di legislazione e di tolleranza rispetto agli arresti e roba del genere, però non ho la sufficiente competenza, insomma, per sì, rispondere in modo preciso. Poi il fatto che, ecco lì, entriamo in un razzismo dell'età, allora, ma perché? Perché Pannella e Bonino dovrebbero mettersi da parte perché non sono giovani? Questo è assurdo, insomma, sono dei grandi leader, e io auguro loro di campare molto a lungo, perché credo che il Partito Radicale abbia molto bisogno di loro. Milano, pronto? Pronto? Prego. Volevo chiedere, secondo il mostro in prima pagina di oggi, secondo lei quale sarebbe, dato che lei appunto ha fatto quel film? E poi cosa pensa della disoccupazione in Europa? Mi sembra che si parlava di 20 milioni di disoccupati in Europa. Il mostro in prima pagina, ho fatto sbatti il mostro in prima pagina, i tempi sono cambiati, nel senso che allora l'uso dei giornali, insomma, i giornali erano all'interno o all'esterno di una lotta di classe, dove c'era una sinistra molto forte, appunto c'era la borghesia, il proletariato, tutto adesso mi sembra parecchio mescolato, anche perché leggo dai sondaggi che la maggioranza degli operai vota per il Partito della Libertà o per la Lega, e quindi ormai non ci sono più confronti o scontri ideologici. Il problema poi che la tragedia della disoccupazione, della precarietà, sì, ne parlano continuamente, però torno al discorso di prima, la gente, parlo in generale, è talmente rimbambita, credo, dalle immagini televisive, dai messaggi televisivi, dai reality televisivi, dai giochi televisivi, anche dai confronti televisivi in cui ci sono opposizioni e governo che rimangono sempre uguali, è chiaro che il discorso tragico della disoccupazione, in qualche modo la gente chiude gli occhi, non ne vuole sapere, se non coloro che tragicamente sono disoccupati. Ecco. Senta, un aspetto particolare della disoccupazione è la disoccupazione nel campo dello spettacolo, perché questa è una cosa che viene ripetuta spesso e probabilmente si riproporrà anche perché è stato un taglio ulteriore del fondo unico dello spettacolo. Ma secondo lei il teatro e il cinema debbono essere per forza vincolati ai fondi dello Stato? Oppure se ne potrebbero liberare, si possono trovare soluzioni diverse per produrre teatro e cinema? Lì teatro non lo so, sul cinema ci sono delle strade molto semplici. Se lo Stato non aiutasse il cinema, è chiaro, tutta una serie di film non si potrebbero fare. Questo è un male, è un bene, non lo so. In tempi tragici, economicamente tragici, è chiaro che l'artista, chi vuole raccontare delle storie, chi vuole procedere per immagini, può trovare anche delle forme e dei mezzi molto più economici. Sappiamo adesso che, a differenza di quando io ho iniziato, i registi si sono moltiplicati, questo strano mestiere che è così difficile, anche ingrato, ma si sono moltiplicati, si possono veramente fare i film con pochissimi soldi utilizzando delle tecnologie estremamente semplici. Io in qualche modo non me lo auguro, per fare dei bei film ci vuole anche tempo e denaro, però alla disperata uno lavora con quello che c'è, ecco. Io credo sempre che per fare un film la prima cosa è proprio un'esigenza e delle immagini che ti vengono in mente. Poi si tratta di capire come tecnicamente realizzarle. Non posso credere che uno dice no, se non ho una certa troupe, certi mezzi, certo tempo, preferisco guardare il mare. Io credo che si lavora con quello che c'è. Poi che lo Stato non debba più dare, questo discorso allora dovrebbe valere per il teatro, per la lirica, per il circo, per tutto. Certo. E poi ricordiamoci che in tutte le nazioni europee le nazioni, penso alla Francia, sono molto, ma molto più generose verso il cinema di quanto non sia l'Italia o la Spagna, e penso anche alla Germania. Ci sono anche politiche diversificate sulla distribuzione, sì, forse. Vabbè, adesso, discorso ampio, bisogna adesso chiedere ai competenti, sì. Però non mi sento di chiedere di rinunciare, perché sarebbe prima di tutto un po' masochista. E poi lì c'è anche un discorso, perché coloro che fanno le polemiche su dire ma voi prendete i soldi e li sperperate, non dimentichiamo che il denaro che viene dato dallo Stato per una produzione non è che se lo mette in tasca il produttore, ma viene distribuito da tutta una serie di lavoratori che quando il denaro viene dato la produzione deve rispettare tutta una serie di regole, ecco. In questo senso aiuta anche l'occupazione all'interno del cinema, ecco. Modena, pronto? Le ultime due telefonate, poi lasciamo andare Marco Bellocchio. Per venire a quello che stava dicendo Bellocchio, io non la conosco personalmente, sono un rimbambito, però che non guardo tanta televisione, dico la verità. Per venire a quello che dice lei dei film tipo quello della Guzzanti, che non pagati con i soldi statali, che non ha fatto zero cassetta, e questa come la chiamiamo? La chiamiamo, non lo so, aiuto sociale, come lo chiamiamo? Perché questo è quello lì, un film perde e non becca neanche un soldo. No, per venire ai Panelliani piuttosto, ma voi vi chiamate non violenti, voi aver fatto morire l'Englaro senza bere, senza mangiare, come la chiamate? Poi l'ultima cosa, Pannella e Bonino, ma che spazi hanno, non so, l'MTA... Prendiamo l'ultima telefonata, sì. E poi lasciamo Bellocchio le risposte dalla provincia di Salerno. Pronto? Sì, buongiorno, salve, sono Vincenzo. Volevo chiedere al signor Bellocchio, ha parlato di coerenza del Partito Radicale. Anch'io sono un vecchio simpatizzante del Partito Radicale, sono molto più vecchio del signor Bellocchio sicuramente, visto che ho 60 anni. Volevo dire una cosa, come si può parlare di coerenza che un Partito Radicale che oltre ad essere un partito autonomo, un partito per se stesso, poi legarsi al centrodestra, al centrosinistra, passare avendo nelle sue file un figlioccio di Pannella come Capezzone che esce per televisione in continuazione a dire soltanto stronzate, come si può essere coerente? Dunque, guardi, su Capezzone mi può trovare d'accordo, perché lì è proprio un voltafaccia. Capezzone mi sembra un po' una specie di alieno che parla, non l'ho mai visto, tutte le volte che l'ho sentito parlare, avere un'esitazione, avere un dubbio, avere un piccolo errore. È un alieno che prima era radicale, era il segretario del Partito Radicale, adesso è diventato il portavoce di Forza Italia. Ecco, un voltafaccia di questo tipo, veramente, più che orrore, mi dico, ma non è un come se non fosse un essere umano, invece è un essere umano da rispettare, verso cui avere il massimo di rispetto, insomma. Per quel che riguarda invece mi aveva colpito la penultima telefonata in cui il signore diceva avete fatto morire. No, questo è falso. Non è che c'erano delle sentenze, dei giudici che avevano dato delle sentenze, quindi attribuire ai radicali la responsabilità di aver fatto morire, questo è profondamente falso, insomma. Semplicemente è stata rispettata la legge, non è che è stata rispettate delle sentenze, ecco. L'altra cosa che mi ha fatto ridere è che lei mi diceva, evidentemente le do l'impressione di essere molto giovane, ma io sono più vecchio di lei, ha detto che ha di avere 60 anni, grazie. Ultima domanda, Gianfranco. Beh, vabbè, senta, niente, per alleggerire un po', purtroppo si è parlato poco del suo film, Vincere, che ricordiamo comunque è sugli schermi in questi giorni, è un film molto bello che avrebbe meritato una discussione più ampia. Una domanda così, più leggera, lei è andato al Festival di Cannes, ha avuto modo di vedere qualcosa di interessante? Purtroppo no. Perché, oppure nel cinema di questi giorni, ecco, se ha visto dei film che le sembrano... Questo deve chiederlo magari appunto ai critici, perché, ma non per osnobismo, per aristocrazia, ma a Cannes siamo stati tre giorni e c'era stato un grande interesse da parte anche di tante televisioni straniere rispetto al film, e per cui siamo stati completamente assorbiti da questo, così come quando siamo tornati in Italia, anche lì stiamo lavorando per il film, l'unico film che è stato presentato dei film di Cannes, mi pare sia stato L'Anticristo, ma che non l'ho visto e quindi non posso, sarei molto scorretto a dare dei giudizi non avendolo visto. Ti piace Von Trier? Ma alcune cose sì, altre no, mi sembra è un autore discontinuo. E ecco. Tarantino, che era presente al festival? Io non l'ho visto. No, so che lei ha polemizzato però con Tarantino, ricordo al precedente. No, perché lui... Vediamo il trash, il cinema trash, c'è cioè questa moda della cinefilia, no? Di una certa cinefilia. Ma io, in fondo, non è... mi piace più un cinema meno... irridente utilizzando il trash, ecco, io preferisco un cinema più costruito in cui lo stile e i contenuti procedano per linguaggi originali ma che non sono autoderisori, ecco. Questo è molto diffuso, tu fai una cosa e ridi di quello che fai e continuamente ridi e deridi e ridi continuamente, questo non mi piace. Bellocchio, la ringraziamo molto. Io ringrazio voi. Grazie a Marco Bellocchio, tra poco di nuovo in diretta con un altro figlio diretto, restate con noi.